strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, nuovo appuntamento con la rubrica dedicata al mondo delle auto e della mobilità. Tanti gli argomenti che affronteremo oggi, parleremo del Salone dell'Auto di Ginevra, ci occuperemo in particolare di alcune presentazioni che sono state lanciate in maniera virtuale quest'anno grazie a internet, ma ci occuperemo anche di altre notizie, come ad esempio i nuovi dati di mercato relativi a febbraio 2020. Ascoltiamo la scheda. Arrivano dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i dati del mercato dell'auto relativi a febbraio 2020. Il mese appena trascorso ha fatto registrare un meno 8,8% nelle immatricolazioni di auto nuove rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Erano infatti oltre 178.000 le auto immatricolate a febbraio 2019, a fronte delle quasi 163.000 del febbraio 2020. A 4 mesi dall'approvazione della legge sono scattate da ieri le sanzioni per gli automobilisti con a bordo bambini sotto i 4 anni sprovvisti dell'apposito dispositivo antiabbandono. Le multe sono le stesse valide per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta per i più piccoli. Una sanzione pecuniaria da 81 a 326 euro, la perdita di 5 punti della patente con rischio di sospensione in caso di recidiva nell'arco di 2 anni. Il coronavirus contagia anche l'autonoleggio, l'allarme è infatti prodotto nel settore. Solo negli ultimi 15 giorni un netto e preoccupante meno 80% rispetto allo stesso periodo del 2019, causato soprattutto dalla contrazione dei flussi turistici. A denunciarlo è ANIASA, l'associazione di Confindustria impegnata nei servizi di mobilità, che ha chiesto interventi urgenti da parte del governo in un momento in cui molti operatori del comparto sono concretamente a rischio sopravvivenza. E a proposito di coronavirus, trasferiamoci in Svizzera, dove il Salone dell'Auto di Ginevra, come ormai sapete, è stato bloccato dal Consiglio federale elvetico a pochi giorni dalla sua apertura. Questo non ha scoraggiato le case costruttrici che hanno deciso di trasferire sul web, in internet, le loro presentazioni, tra queste Mercedes. Ne parliamo questa sera in compagnia del nostro ospite Eugenio Blasetti, responsabile della comunicazione di Mercedes Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti voi. Allora, Mercedes è una delle case che per prima si è riorganizzata per appunto mettersi sul web e trasmettere sul web tutto ciò che avrebbe in qualche modo prodotto lì a Ginevra. Che cosa pensi che possa funzionare di questo sistema virtuale, che un po' qualcuno aveva provato qualche anno fa, quello del salone virtuale, e che invece oggi siamo costretti ad adottare? Diciamo, questo è stato un intervento di emergenza, quindi era praticamente tutto pronto e quindi abbiamo fatto di necessità virtù. Ma io non credo che effettivamente questa sia la fine dei saloni, che in realtà già stavano mutando però, quindi passando da una sorta di concetto statico, che è quello classico dei saloni sin da 50 anni a questa parte, diventando una cosa un po' diversa, quindi una sorta di momento più esperienziale sia per gli stakeholder, quindi per gli addetti ai lavori, ma soprattutto per quelli che vengono a vedere il salone. È chiaro che ci deve essere qualcosa di diverso rispetto a quello che tu vedi tutti i giorni, puoi vedere tutti i giorni sul web o vedi in concessionaria. Quindi in questa occasione già stavano mutando, già il salone di Ginevra sarebbe stato diverso, con la possibilità di provare le automobili, o come sta mutando il salone che verrà fatto a Milano a giugno, speriamo che venga confermato, in cui ci sarà una grande possibilità di provare effettivamente le automobili e provarle in modo particolare, un po' forse come all'epoca fu il successo del Motor Show di Bologna, quando effettivamente si viveva un'esperienza che era assolutamente impossibile vivere in altre condizioni. Veniamo allora a questa edizione virtuale. Questa settimana voi, come anche altre case costruttrici, avete optato per una presentazione online dei vostri nuovi modelli, a cominciare dalla nuova classe E. Che cosa c'è di nuovo su questo segmento? Beh, la nuova classe E per noi è un prodotto storico. Pensa che praticamente la Mercedes classe E viene considerata la Mercedes, quindi la Mercedes per antonomasia. Ne abbiamo prodotte sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale 14 milioni, e dell'ultimo modello, che è nato nel 2006, ne abbiamo già vendute 1,2 milioni. Oggi, diciamo, in Italia e in Europa vanno tanto i SUV, e la scelta di queste macchine si è spostata, hanno grandissimo successo negli Stati Uniti e in Asia e in Cina. Ma la classe E, berlina, station wagon, cabriolet e coupé, resta un modello importante per forse i nostri clienti, quelli più storici. Ecco, com'è cambiata quest'anno questa classe E? Quali sono le novità che avete presentato qualche giorno fa? Allora, è cambiata dal punto di vista estetico, sia all'interno che all'esterno. Cambia la tecnologia, arriva anche sulla classe L MBUX, quello di Mercedes, che puoi parlare con la macchina e lei ti parla. E sono cambiati anche gli ADAS, quindi i sistemi di sicurezza, per cui oggi l'intervento di correzione è più morbido, e nello stesso tempo capisce al volo, se stai toccando il volante, anche solo sfiorandolo, che ci sei. Perché noi parliamo sempre non di guida autonoma, parliamo di guida assistita, che serve per evitarti gli incidenti. Poi ci sono dei sistemi veramente interessanti di controllo della macchina nel caso che te la danneggino o che te la rubino. Quindi in questo caso tu da un'app puoi sapere esattamente dove è la macchina e seguire magari i ladri che te l'hanno rubata, anche se questi hanno disattivato il sistema di controllo dentro l'automobile. E poi i motori, che sono nuovi completamente, e fa il suo debutto un motore ibrido diesel plug-in, quindi significa che c'è un motore che ha una potenza complessiva di 320 cavalli, di cui una parte importante sono elettrici, e quindi senza pagare il superbollo, e il vantaggio è che anche si sarà anche in versione 4 ruote motrici, quindi unendo tutta una serie di tecnologie in un mix che in questo caso è assolutamente unico. Ecco, un diesel plug-in, quindi un'auto diesel e elettrica, una decisione che va un po' controcorrente rispetto alla demonizzazione che è stata fatta e si sta ancora facendo in alcuni centri italiani. Allora, noi siamo, diciamo, i propulsori, diciamo, delle nuove tecnologie. Abbiamo lanciato la Smart Elettrica, che oggi è diventata soltanto elettrica, abbiamo introdotto i servizi di car sharing, abbiamo bene in mente quello che faremo fino al 2039. Da quel momento in poi noi saremo carbon neutral, quindi non immetteremo un microgrammo di carbonio nell'atmosfera. Nel 2030 venderemo il 50% di automobili ad alta elettrificazione, quindi o ibride, plug-in o elettriche. E queste stesse macchine abbiamo l'obiettivo di venderne fino al 25% nel 2022, quindi per noi la strada è già tracciata. L'elettrificazione, la contaminazione elettrica è inarrestabile, perché è l'unico modo effettivamente per avere delle macchine che siano ad inquinamento il più prossimo allo zero. Questo non significa che i motori endotermici non ci diano ancora una mano, ma basta che siano motori di ultimissima generazione, perché quando parliamo degli Euro 6D o degli Euro 6D Tempo, quindi gli ultimissimi motori di Mercedes, questi, benzina o diesel, in realtà quando ci circolano nelle città che hanno un alto livello di inquinamento, quello che mettono dallo scarico è più pulito rispetto a quello che è l'aria inquinata in quel momento. Perché in realtà queste macchine, le ultime generazioni, sono dei veri e propri filtri a quattro ruote. Oltre alla classe E, che avete presentato in maniera particolare in occasione dell'evento di Ginevra, quali saranno le altre novità che caratterizzeranno questo 2020 di Mercedes? Noi siamo prossimi al lancio della GLA, che è il più piccolo SUV di casa Mercedes, che rispetto al modello che sostituisce è 10 cm più alto, quindi è un vero e proprio SUV. Anche questo, cambiano tutti i motori, arriva anche qui l'MBUX, quindi questo sistema intelligente, intelligenza artificiale su una macchina, e soprattutto anche qui arriva un ibrido plug-in, in questo caso benzina, con un motore endotermico 1300 più piccolo, con una potenza complessiva di 218 cavalli e tra 70 e 80 km di autonomia soltanto in elettrico. Questo per dire che questa, diciamo, la strada per noi è abbastanza tracciata. L'elettrificazione sarà veloce per quanto riguarda le macchine piccole, quest'anno venderemo 6.000 smart elettriche, e un'opzione che non cambia la vita dei nostri clienti, quindi la carichi a casa, la utilizzi e poi non hai l'ansia effettivamente di doverla ricaricare e stai per esaurire la tua energia. Bene, termina qui anche questa prima parte di Strade e Motori. Abbiamo parlato poco fa di grandi potenze, continueremo a parlare di auto sportive, perché nella seconda parte ci concentreremo su Cupra, il brand sportivo di Seat, che qualche settimana fa ha aperto un nuovo centro di produzione e distribuzione in Spagna, il Garage Cupra, lanciando anche dei nuovi modelli che vedremo presto in Italia. Tutto questo nella seconda parte di Strade e Motori, tra pochi minuti. Restate con noi. Silvio, che fai? Ah, ciao Ivana, scusami, sono un po' impegnato. Ma dai, cos'è sta storia ora? Dai che dobbiamo andare a correre. No, oggi no, guarda, la 4 a buca all'angolo. Ti ricordo che ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 parliamo di running, di corsa, di atletica, di triathlon. Lo so, però è la 12 al centro e quindi? Per parlare di corsa bisogna correre. Scusa, il biliardo non vale? No, non vale, devi correre, nuotare o pedalare. E snooker? Non vale, correre Silvio. Goriziana? Pedalare! Tu comunque sottovaluti il biliardo, tutta una cosa di testa, concentrazione, gesto. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24. Strade e Motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato, e come vi avevo anticipato nel corso del precedente appuntamento, approfondiamo in questo spazio un brand che è Cupra, il marchio sportivo di casa Seat. Qualche giorno fa a Barcellona è stato presentato il nuovo Garage Cupra, il centro di controllo e di comando da cui dovranno partire non solo le indicazioni ma anche il design e la produzione di questi modelli, che stanno riscontrando un notevole successo su alcuni mercati europei, non ancora su quelli italiani, e fra poco scopriremo perché. Ne parliamo in compagnia di Pier Antonio Vianello, che è il direttore di Seat Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie per l'opportunità. Allora, dicevamo, avete inaugurato qualche giorno fa in Spagna questo Garage Cupra, un po' il segno di questa voglia di lanciare questo marchio in via definitiva. I numeri delle vendite europee nel 2019 sono stati numeri importanti e sono stati presentati appunto alla stampa. Ci sono dei mercati su cui questo marchio va fortissimo, a cominciare dal mercato tedesco. Fino ad oggi in Italia non si è visto molto. Perché? Allora, in pratica il marchio è completamente nuovo, quindi abbiamo avuto il nostro primo modello, che è stata la Cuprateca che offriva delle performance straordinarie ma pagava anche il Super Bowl. Esatto. Questo è stato il motivo perché la diffusione nel nostro paese non è stata così elevata come ad esempio è stata invece in Germania, in Svizzera, in Francia, e siamo pronti però a risolvere anche questo tema, perché la futura gamma Cupra, a partire dalla vettura che abbiamo presentato in quell'occasione che è Cupra Leon, e offrirà delle motorizzazioni congeniali al nostro paese. Non c'è solo il tema dei cavalli del Superbollo, ma la futura gamma Cupra prevede anche il fatto di avere dei motori ibridi. Quindi a Martorell la settimana scorsa, proprio al quartier generale Cupra, abbiamo presentato Cupra Leon, che per la prima volta nel marchio Cupra offre una vettura ibrida con 245 cavalli, quindi sicuramente sotto il Superbollo, ma soprattutto ibrida, e quindi anche in questo caso il Superbollo certo. Svanisce. Certo, ecco, veniamo proprio a questo Garage Cupra che è stato inaugurato qualche giorno fa, uno spazio multifunzionale, un vero e proprio quartier generale. Perché si sentiva il bisogno di creare uno spazio dedicato esclusivamente a questo brand? È perché è un marchio, per cui ogni marchio deve avere il suo team, deve avere il suo centro di progettazione, di sviluppo, tutta la parte poi di comunicazione per lo sviluppo del marchio stesso nei vari mercati. E una parte delle persone che lavoravano in Seat è stata spostata per creare appunto questo nuovo marchio. Tra l'altro poi la struttura è totalmente completa, nel senso che prevede un presidente, un direttore commerciale e poi tutti i livelli sotto, quindi diciamo che non è una divisione classica magari di certe organizzazioni, certo, ma una struttura indipendente che pensa in modo indipendente. E che quindi si prepara al grande lancio di questo 2020, però torniamo un attimo al Martorell, all'evento di qualche giorno fa avete presentato la Cupra Leon. Quali sono le caratteristiche di quest'auto? Allora, le caratteristiche sono completamente nuove. La vettura è stata riprogettata, quindi parliamo di un modello nuovo in tutto, sia nel design sia nella parte telaistica che motoristica, ma soprattutto nella gamma che offre nelle carrozzerie. Quindi avremo una versione hatchback e una versione sport tourer, tra l'altro poi caratterizzata da capacità di carico impensabili in passato, perché una vettura sportiva che ha un bagagliaio di più di 600 litri offre comunque una versatilità straordinaria. E poi il fatto che offriremo sia versioni motorizzate a benzina sia versioni motorizzate anche benzina e ibrido plug-in. Ecco, anche Seat, quindi anche Cupra, ha lanciato i suoi nuovi modelli che dovevano essere presentati in occasione del Salone di Ginevra in maniera virtuale. Cupra in particolare ha presentato il suo nuovo Cupra Formentor, il primo veicolo interamente prodotto dal brand. Di che cosa si tratta? Il primo modello nativo Cupra, quindi la vettura che sarà che nascerà e sarà commercializzata solo come Cupra, una formula completamente nuova anche all'interno del gruppo Volkswagen, perché in questo momento non esiste un crossover di questo tipo all'interno del gruppo, quindi fa capire quanto Cupra stia prendendo una direzione sempre più personale e di identità molto forte. E quindi una vettura versatile ma che offre delle performance straordinarie sia a livello telaistico che di prestazioni pure. Anche in questo caso la mobilità sostenibile è garantita in quanto avrà la sua versione ibrida. Certo, quando vedremo queste auto nei concessionari italiani? Allora, avremo queste auto a breve, perché subito dopo l'estate inizierà il lancio di Cupra Leon e in autunno, quindi ottobre, avremo già nei saloni Cupra Formentor. Veniamo a casa madre, quindi Seat, non Volkswagen ovviamente. Come è andata Seat nel 2019 in Italia e quali sono le prospettive per questo 2020? Diciamo che i numeri di Seat in Italia diciamo sono ancora piccoli, per cui combattiamo all'interno della classifica, no, dei marchi più venduti, però con un fatto distintivo, perché nel 2019 siamo cresciuti del 32% rispetto al 2018 e questo trend l'abbiamo confermato anche nel mese di gennaio, dove abbiamo di nuovo replicato un più 30%, quindi piccoli però in grande crescita in virtù del fatto che la gamma sta portando sempre nuovi modelli. Certo, quali sono i modelli che hanno avuto più successo lo scorso anno? Allora, la vettura più venduta lo scorso anno è stata Seat Arona, che si caratterizza all'interno dei SUV, no, che è il segmento che in Italia sta crescendo di più, per un fatto unico, perché l'anno scorso era l'unico modello SUV disponibile a metano. Uh-huh. E questo è stato molto apprezzato dagli italiani. Dopodiché anche Leon ha mantenuto forti volumi, anche in questo caso con una versione a metano, e Ateca ha confermato i risultati molto positivi dal suo lancio, che risale al 2016. Novità per il 2020? Al 2020 è ricco di novità, perché riguardano entrambi i marchi. Abbiamo lanciato Seat Mi Electric, che è stato il primo passo verso l'elettrificazione alla fine dell'inverno. Poi continueremo con il lancio di Seat Leon, sia hatchback che sport tourer. E dopodiché, come dicevamo prima, tutto sarà appannaggio del marchio Cupra, perché sì, lanceremo Cupra Leon, Cupra Formentor, che tra l'altro poi avrà anche una caratteristica unica nel marchio Cupra. Non parleremo più di vetture solo da 300, comunque da potenze molto elevate, però già dal 2021 vedremo una gamma molto completa anche nelle motorizzazioni, affinché tutti gli italiani possano approcciarsi a questo marchio. L'ultima, il grande nostro passaggio tecnologico all'elettrico, dopo l'inizio con Mi Electric, che è il lancio di Seat Elborn. Anche il Born sarà un passo fondamentale per l'arricchimento della gamma. E noi continueremo a seguire con attenzione appunto l'evoluzione di questa gamma Seat anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Intanto salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Pier Antonio Vianello, direttore di Seat Italia. Termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. L'appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità torna come al solito sabato alle 22 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.